Capitolo 21. Sulla Stella Rossa i bambini crescevano assieme, in grandi colonie di migliaia di abitanti. Leonid ne aveva visitata una. Edifici a due piani, dal soffitto blu, erano disseminati tra ruscelli, stagni, prati per giocare ed esplorare, distese di fiori, orti di piante medicinali, rifugi per animali e uccelli. In un giorno d'ottobre del 1913, Bogdanov uscì dalla stazione di Monsorius e si diresse verso l'ingresso del parco, pensando che quelle vecchie cave di pietra, trasformate in giardino all'inglese, erano quanto di più simile a una colonia infantile marziana si potesse trovare a Parigi. Gli esuli bolscevichi avevano scelto le sue aiuole come asilo en plein air, dove le tate francesi, o gli stessi genitori a turno, si occupavano di più bambini alla volta, mentre nei giorni piovosi i piccoli venivano accolti in una sala pubblica o negli appartamenti più spaziosi della zona. Abitavano tutti lì, nel XIV, in un sobborgo che si chiamava Petit Mont Rouge e già dal nome, Monte Rosso, sembrava destinato ad accogliere i rivoluzionari. Il circolo di cultura proletaria si riuniva nel salotto di Lunacharsky, a due passi dal parco, nello stesso palazzo che aveva dato un tetto a Zinoviev Kamenev. Lenin aveva vissuto poco più in là, in Rue Marie-Rose, e i caffè del quartiere lungo la strada della Porte d'Orléans avevano ospitato le loro discussioni. Sempre in quella via c'era il comitato centrale del partito e in una laterale la tipografia che stampava il Proletari. Dopo la sua espulsione il giornale aveva avuto vita breve. Ne erano usciti 4 numeri prima che i menscevichi ottenessero di chiuderlo, accusando la redazione di esprimere soltanto le opinioni bolscevichiche. Frazionismo, lo stesso crimine di cui Lenin aveva incolpato lui. Di lì a poco Bogdanov era arrivato ai ferri corti anche con la redazione di Fered. Lo avevano accusato di malversazione per via di un ammanco dalla cassa del gruppo che gli era stata affidata. Bogdanov non aveva potuto giustificarlo. Aveva distribuito quei soldi alle famiglie dei georgiani finiti in galera per la rapina di Tiflis. Lo aveva promesso a Camus, ma non poteva dirlo a nessuno. Una parte del malloppo falla avere a mogli e figli. Era un patto tra compagni e tra rapinatori. Avrebbe tenuto fede a quella parola, qualunque fosse il prezzo da pagare. Ormai, fuori da tutto, Bogdanov aveva scelto di abbandonare la comunità parigina e di trasferirsi a Bruxelles, insieme a Natalia. Anfusa era rimasta a Parigi con Kotick, in un'unica stanza con cucina, di fianco alla cappella di San Giovanna d'Arco, appena costruita e consacrata. Ricordava un pomeriggio terribile nella casa di Bruxelles, quando aveva proposto a Natalia di morire insieme con una dose di veleno. Lei aveva compreso subito che non si trattava di un'idea gettata sul tavolo per il puro gusto di giocare con l'assurdo. Vivevano un'esistenza misera, faticosa, isolati e poveri. Non di meno si era arrabbiata. Ammazzarsi poteva essere una saggia decisione quando non si aveva più nulla da dare al mondo, ma come poteva essere certo che fosse così? Chi poteva dire cosa gli attendeva dietro la prossima svolta della vita? Era davvero deciso a smettere di lottare per le proprie idee? Lei non ci credeva. E poi c'era Kotick. Quel bambino era l'avvenire. Era dovere di tutti loro crescere una generazione a cui passare il testimone. Quel giorno, quando lei l'aveva trattato alla stregua di un disertore, l'aveva ammirata come non mai. Era il motivo per cui era rimasto al fianco di quella donna e ci sarebbe rimasto, nonostante l'amore per un'altra. Natalia era meno romantica delle rivoluzionarie più giovani, ma salda nelle sue convinzioni, nel suo dover essere, nel senso pratico con cui affrontava la vita e gli impediva di perdersi in voli pindarici. Anche lei gli sarebbe rimasta accanto, e non per senso di fedeltà, ma per scelta. «Anche il mio è libero amore», diceva. «Sono libera di amarti e di amare solo te, se voglio». Bogdanov varcò il cancello del parco. Anfusa gli aveva dato appuntamento al padiglione della musica, ma lui sapeva che il modo migliore per arrivare a destinazione era vagare per i viali alberati, inseguendo le foglie che pennellavano il vento. Di norma passava da Parigi 2 volte al mese, per stare con il figlio una mezza giornata e verificare i suoi progressi. Gli piaceva osservare da lontano come si comportava con gli amici, senza interferire. I bambini apprendono la maggior parte delle loro conoscenze sulla vita gli uni dagli altri, diceva un'educatrice marziana nel suo romanzo. Se vogliamo che partecipino alla società, aggiungeva, bisogna che vivano in società. Anche quando si trovava da solo con Kotick, Bogdanov non smetteva di studiarlo. Se gli mostrava vari tipi di foglie, era per domandargli cosa avevano in comune e vedere quanto fosse sviluppata, in un bimbo di 4 anni, l'idea dell'organizzazione universale di tutto ciò che esiste. Se gli chiedeva un disegno, era per cavarne indicazioni sulla sua psicologia. Se gli insegnava gli scacchi, era per provare un metodo di sua invenzione, che permetteva di imparare anche in tenera età. Se gli chiedeva quali giochi preferiva, era per valutare quanto fosse incline all'individualismo. Lo portava a vedere mulini, tipografie, turbine elettriche, per poi interrogarlo su cosa avesse capito. Erano pomeriggi intensi, i loro, e per questo gli pareva che 2 volte al mese fosse già abbastanza, considerando anche il costo del viaggio, andata e ritorno da Bruxelles. Ma quel giorno Bogdanov aveva in tasca un biglietto diverso. Fin dai primi mesi dell'anno, speranze e articoli di giornale si erano gonfiati con la notizia che i Romanov, per il 300° anniversario del loro regno, avrebbero proclamato un'amnistia per i prigionieri politici e gli esiliati. La voce aveva trovato conferma in un decreto, emanato durante le celebrazioni. Molti si preparavano a partire, da Berlino, Ginevra, Parigi, Londra, Capri. Altri sospettavano che si trattasse di un perdono di facciata, per sbandierare la generosità dello zar Nicola e attirare in trappola i fuoriusciti che tramavano all'estero contro l'impero russo. L'amnistia non significava che la polizia avrebbe smesso di arrestare e imprigionare i dissidenti. Bogdanov e Natalia avevano riflettuto a lungo. Alla fine, tra il pochissimo che erano certi di avere, appena sufficiente per campare a Bruxelles, e l'incognita di un ritorno in patria, avevano scelto di tentare la via di San Pietroburgo. L'unica fonte di reddito in quel momento erano i libri, le traduzioni e una rubrica sulla Pravda, il nuovo quotidiano dei bolscevichi. Dopo la chiusura del Proletari, Lenin aveva capito che non era più possibile tenere insieme il Partito Operaio Socialdemocratico. Alle elezioni del 1912 i bolscevichi si erano presentati da soli e si erano dotati di un nuovo organo di stampa, tendendo la mano a Bogdanov. Il riavvicinamento era durato il tempo di 5 articoli. L'ultimo, intitolato Ideologia, era stato bloccato per intervento di Lenin. Come previsto, arrivò al padiglione per puro caso, o forse era stata Anfusa ad attirarlo a sé. La riconobbe da lontano, fasciata nel cappotto verde, alta e snella. Anche a distanza Bogdanov sentiva che quella donna aveva il potere di cambiargli l'andatura, l'espressione del viso, la consistenza dei muscoli, e non riusciva a spiegarsi se fosse l'effetto dei ricordi, lo spettro di quanto avevano vissuto o soltanto l'idea di trovarsela di fronte. Un'anima gemella, la sua avversione al femminile. Per questo non avrebbe mai potuto vivere al suo fianco. Erano troppo simili. Per questo non avrebbe mai smesso di sentire un'attrazione profonda. Il suo fascino nasceva dal contrasto tra la forza degli occhi chiari e il volto affilato, tra la risolutezza dei gesti e il corpo esile, roso dalla malattia, tra la profondità della voce e i colpi di tosse che la spezzavano. Il suo sguardo era lo stesso di Euridice, che vede il regno dei vivi e chiama Orfeo, quando la sua carne è ancora negli inferi. E Bogdanov, come Orfeo, non poteva fare a meno di guardarla e sancirne la condanna. Sul suo volto, pallido e magro, gli occhi ardono, lo sguardo teso e colmo di pene e amore. Molti anni di inquietudine, lavoro, stanchezza senza fine hanno lasciato nei tratti del suo viso. «Kotick non c'è?» domandò dopo i 3 baci di saluto. «È giù, al laghetto con gli altri bambini». «Cerchiamo una panchina libera», propose Bogdanov, e imboccarono la salita che portava al belvedere. Una donna li superò, spingendo una carrozzina da neonati e mormorando una ninna nanna in russo. Arrivati in cima, sedettero sull'orlo della cascata artificiale, mentre i palazzi del quartiere li spiavano tra i rami, e la vista si apriva sui prati e le statue del parco. Bogdanov andò dritto al punto. Le domandò cosa avesse pensato per se stessa. «Io resto, Sasha», disse lei sicura. «Qui ho un lavoro, posso curarmi, e non rischio di tornare in prigione. Kotick sta meglio, ha tanti amici». «Non devi farlo per lui», si affrettò a dire Bogdanov. «Sono sicuro che Anatoly lo prenderebbe in casa volentieri. Suo figlio ha 2 anni, possono crescere insieme. Non si sarebbe mai perdonato di imporle il fardello della prole. Durante una cena, alla scuola di Bologna 3 anni prima, Alexandra Kollontai gli aveva rinfacciato una frase del suo romanzo. Gli aveva mostrato la pagina, con le righe sotto accusa evidenziate a matita. Come la maggioranza dei bambini marziani, Nettie aveva passato i primi anni della sua vita in casa con la madre. Quando era giunto il tempo di mandarla alla colonia infantile, Nella non aveva voluto separarsi da lei e aveva deciso di farsi assumere come educatrice. «Non è il pianeta socialista che mi piacerebbe abitare», gli aveva detto, «quello in cui l'esistenza delle madri è confezionata su misura per i figli». Lui avrebbe voluto risponderle che era stato Leonid a raccontargliela così, ma poi aveva preferito evitare una simile scappatoia. Non era nemmeno sicuro di non esserselo inventato lui, quel particolare. «Anche su Marte ci sono contraddizioni», le aveva ribattuto, «come in tutto ciò che esiste. Una società ideale senza conflitti non sarebbe ideale, sarebbe una bugia». Lei gli aveva suggerito di interrogarsi se certe contraddizioni erano soltanto su Marte o se non stavano anche nella mente dell'autore. Bogdanov era rimasto zitto. Non era facile tener testa su certe questioni a una donna che molti anni prima aveva lasciato a San Pietroburgo il marito e il figlio di 4 anni per andare a studiare a Zurigo e diventare una rivoluzionaria. Anfusa sistemò un ricciolo biondo sotto il cappello a cloche. «Non capisci? A avere accanto Kotick mi dà un motivo in più per restare viva». «Se le cose mi andassero bene», ritentò lui, «potrei trovarvi una sistemazione in Russia, tra qualche tempo. Ho un libro da pubblicare, il seguito di Stella Rossa, ho contatti con i giornali». «Sarei soltanto la tua amante e la madre di tuo figlio», lo interruppe Anfusa. «Sono sicura che non è quello che vuoi. Di certo non lo voglio io». Gli sfiorò il volto. «So che vuoi bene a Kotick e a me, però la mia vita è qui. Qui ho i miei amici, donne e uomini che amo frequentare e che mi aiutano. E c'è questa grande, meravigliosa città dove non siamo perseguitati. Non voglio che mio figlio cresca sotto il regime dello zar. Non voglio che abbia il nostro stesso destino. Voglio che sia libero». Bogdanov l'ascoltò parlare sentendo crescere l'attrazione disperata per lei. «Con il mio amore volevo darle felice ristoro, con le mie carezze cancellare quell'impronta scura, ma troppa poca gioia le ha dato il mio amore e troppe nuove sofferenze ha portato con sé». «Vieni», lo invitò lei, «andiamo da lui». Si alzarono e scesero per il sentiero diverso, lungo i marciapiedi che costeggiavano la ferrovia di Chenu, sotto le chiome intatte di pini e cedri del Libano. Passarono di fianco a una statua di bronzo, alta sul piedistallo. Rappresentava una vecchia donna, curva e malsicura, che si appoggiava a un bastone. L'altro braccio era sostenuto da una ragazzina, scalza, i fianchi stretti da un grembiule. Teneva gli occhi alzati, con premura, sul volto della vecchia, per assecondare le sue richieste e misurare i propri passi su quelli di lei. La scultura era pensata per suscitare pietà e ammirazione, ma Bogdanov provò tristezza e si volse verso Anfusa, al suo fianco. «Cosa serviva a quell'anima, lo capii troppo tardi. Più di una volta la mia mano la toccò in modo brusco. Ora, dalle mie carezze, è nata la speranza. La felicità materna è sorta nel suo cuore». Trovarono Kotick in compagnia della tata, intento ad ammirare un cigno nero. Il bimbo corse incontro a suo padre, come faceva sempre, quasi che il loro saluto fosse regolato da un rituale preciso. «È l'ultima volta che ci vediamo?» chiese il piccolo appena si sciolse dall'abbraccio. Bogdanov rimase interdetto dalla naturalezza della domanda. «No, Kotick», rispose. «Ci vedremo ancora, ma passerà un po' più di tempo prima della prossima volta». Il bimbo gli strinse la faccia tra le mani, come facevano con lui gli adulti che lo incontravano. Non era un gesto piacevole, ma il padre lo accolse come una carezza. Poi dovette trattenere il figlio, che già voleva correre dietro a un'oca grande quanto lui. «Volevo portarti dal fotografo», annunciò, «perché tornando in Russia passerò a trovare il nonno e volevo che vedesse il suo nipotino». «Chi è il nonno?» domandò Kotick, tirando il braccio per divincolarsi. «È mio padre, Aleksandr Aleksandrovich. Non l'hai mai conosciuto». «Perché ci chiamiamo tutti uguali?» «Te l'ho già spiegato. È una tradizione di famiglia. Forza, bagnati le mani e pulisciti le ginocchia. Non vorrai farti la foto tutto sporco». Kotick eseguì, felice di poter mettere le dita nell'acqua, una di quelle imprudenze che di solito gli costavano una sgridata. Se vuoi, possiamo chiedere al fotografo come funziona la sua macchina. L'hai mai vista dentro una macchina fotografica? Macchina fotografica! Gridò il bimbo entusiasta e filò sulla ghiaia del viale per precedere gli adulti al cancello di uscita. Bogdanov lo osservò correre, le gambe troppo corte per tenere quel passo, la blusa che impacciava i movimenti. Incespicò e cadde. Anfusa accelerò l'andatura, ma prima che lo raggiunse, Kotick era già in piedi. Spazzò via la polvere con le mani e ripartì di slancio verso la meta. Toccò il cancello e si voltò, eccitato, per controllare dove fossero i suoi genitori. Bogdanov, rimasto indietro, si fermò. Ma della pena e dell'angoscia passati non può scomparire il veleno. Dolorosi continuano ad ardere i suoi occhi. Inquadrò Anfusa, poco più avanti. Pareva spinta dal vento, la silhouette stagliata nella luce del pomeriggio. La osservò raggiungere il bambino, senza sapere che non l'avrebbe rivista mai più.